14. Ascolta e leggi la poesia. Poi sottolinea i verbi all'imperativo. Oh poesia, non venirmi addosso. Sei come una montagna pesante. Mi schiacci come un moscerino. Poesia, non schiacciarmi. L'insetto è alacre e insonne. Scalpita dentro la rete. Poesia, ho tanta paura. Non saltarmi addosso, ti prego.